Il miele è il prodotto risultante dalla trasformazione del nettare dei fiori che avviene tramite il principio dell'invertasi realizzato con i succhi ghiandolari dell'ape. Esso costituisce certamente uno degli alimenti più completi e importanti in natura, e il suo uso da parte dell'uomo si perde nella notte dei tempi. A darne conferma, in varie grotte esistono anche alcuni dipinti rappresentanti l'uomo che sta raccogliendo il miele da un nido di api. Il miele al tempo dei Romani era l'alimento base per imperatori, patrizi e plebei. E nella mitologia greca si ricorda che il dio Zeus, durante la sua prima infanzia, fu nutrito con del miele d'api. Nulla di strano, quindi, che spesso la Bibbia citi il miele, perché anche il popolo di Israele ne ha fatto sempre largamente uso, e lo dimostra il fatto che fin dai tempi dei patriarchi esso veniva offerto come dono. Infatti, quando Giacobbe volle ingraziarsi il favore del viceré d'Egitto, che a sua insaputa altri non era se non suo figlio Giuseppe, gli fece portare i migliori prodotti del paese, consistenti in un po' di balsamo, degli aromi e della mirra, dei pistacchi e delle mandorle e del miele. Genesi 43.11. Purtroppo il valore e l'importanza nutrizionale del miele acquisiti nel corso dei secoli trovano il loro declino con la comparsa dello zucchero. Ma esso rimane comunque una sostanza che tutti prima o poi abbiamo gustato. Dato che ad alcuni piace e ad altri no, parlare del miele e prenderlo come metro di paragone può produrre reazioni contrarie. La parola di Dio impiega il miele come simbolo per indicare una grande dolcezza. È per questo che, nell'esaminare il valore della rivelazione del pensiero e dei piani dell'Eterno trasmessa tramite i profeti, il salmista ha esclamato: «Come sono dolci le tue parole al mio palato! Sono più dolci del miele alla mia bocca». Salmi 119-103. Il credente dell'Antico Testamento confessava la bellezza della parola di Dio, esprimendosi con questo paragone. Egli la trovava più dolce del miele, appetibile, desiderabile, piacevole più del piacere provato nel mangiare del miele. Non stupisce quindi che, nel considerare le vie di Dio, un altro salmista esclami: «Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, di quello che stilla dai favi». Salmo 19.9-10. Di fronte a queste testimonianze, quale valore attribuiamo alla parola di Dio? Quanto la leggiamo e la meditiamo? Quanto amiamo il Dio trino della parola? Proprio perché il miele è simbolo di dolcezza, di benessere e di bontà, l'Eterno apparso a Mosè nel pruno ardente, presentandogli il paese del quale avrebbe preso possesso il popolo di Israele. Lo descrisse così: «Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittei, gli Amorei, i Perezzei, gli Ivvei e i Gebusei». Esodo 3.8. L'unione dei due vocaboli, latte e miele, per un popolo che viveva nella miseria, rappresentavano il non plus ultra della prosperità. Il latte simboleggiava abbondanza e benessere, il miele, dolcezza, e ciò che è attraente e piacevole. Da notare, però, che il paese promesso non era solo spazioso, buono e opulento da dare latte e miele, ma in esso abitavano anche dei popoli nemici che avrebbero costituito una continua provocazione morale e politica per Israele. La promessa dell'Eterno al popolo di Israele non si discosta molto dalle promesse di Gesù fatte a coloro che avrebbero creduto in Lui. Perché al credente è promessa sì una vita abbondante, ma questa sarà vissuta come da pecore, in mezzo ai lupi. Occorre anche riconoscere però che l'Eterno, parlando a Mosè, non si riferisce al miele solo in senso simbolico. Infatti, durante i 40 anni trascorsi nel deserto, miracolosamente, il popolo di Israele ha potuto mangiare del cibo che sapeva di miele. La manna della quale si nutrirono gli ebrei al tempo del loro pellegrinaggio verso la terra promessa è appunto così descritta. Virgolette punto punto. Essa era simile al seme di coriandolo, bianca e con il gusto di schiacciate fatte col miele. Esodo 16 e 31. Chissà cosa pensava un israelita quando mangiava la manna. Se il sapore di questo cibo, strano, aveva un lieve sapore di miele, come sarebbe stato il paese promesso? Questo lieve sapore di miele induceva il credente a desiderare di conoscere il futuro. Così è del cristiano. La parola di Dio, come abbiamo visto, è miele per chi ha posto fede in Cristo. E se quando legge le scritture egli gusta la dolcezza dell'amore e della giustizia di Dio, cosa sarà quando giungerà nella Gerusalemme celeste? Se il credente gioisce ora in Cristo che non ha veduto, quale gioia gli sarà riservata in cielo quando lo vedrà faccia a faccia? Dal libro dei Proverbi possiamo trarre dei principi morali grazie ai molti riferimenti al miele, sia in senso simbolico, sia reali e a volte con ambedue i significati. Figlio mio, mangia il miele perché è buono, un favo di miele sarà dolce al tuo palato, mezzanotte e 13. Come abbiamo detto, il miele costituisce uno degli alimenti più completi e importanti in natura, perciò il suo uso tra gli ebrei era abbondante. Se non ci sono dei problemi di salute, il miele dovrebbe essere somministrato normalmente ai bambini e dovrebbe essere consumato anche dagli adulti. Purtroppo i bambini sono abituati a mangiare dei preparati di fabbrica talmente appetitosi da arrivare a rifiutare ciò che è in natura. Questo ancora una volta è la dimostrazione di un istinto a rifiutare l'opera di Dio dimorante in noi. Infatti nel creare l'uomo l'Eterno gli ha già provveduto tutto il cibo necessario per la sopravvivenza, come la verdura, la frutta, i cereali e tante altre cose. In seguito l'uomo ha imparato a trarre dai cereali il suo cibo manipolando nello stato normale, come dal grano ha tratto il pane, e questo non è sbagliato. Ma con il tempo l'uomo ha commesso il grave errore di industrializzare tutto il suo cibo, perdendo in questo modo i sapori originali della natura. In quest'epoca industrializzata ormai tutto è preparato, tutto è opera dell'uomo, i sapori naturali sono andati perduti, al punto che si è abituati più al sapore industriale che al sapore della natura come Dio l'ha creata. Vedo lo sforzo che faccio per abituare i miei nipoti a mangiare il miele, ma non solo il miele. Di per sé mangiare sempre cibi preconfezionati dalle fabbriche sembra innocuo, ma questo nella mente delle persone forma il concetto che il cibo provenga dall'uomo stesso e non da Dio. Ricordo quando tempo fa è sorto un campanello d'allarme. I bambini vedendo galline non sapevano da dove venivano le uova e pensavano che fossero prodotte dalle fabbriche. E così alcune autorità decisero di portare i bambini a vedere gli animali perché potessero conoscere la realtà delle cose. Del resto, anche se siamo nel XXI secolo, alla vista del mio pollaio dove ho solo delle galline, varie persone adulte con figli mi hanno chiesto con molta serietà come esse potessero fare le uova senza il gallo. Ho paura, l'uomo avendo scartato dal suo pensiero il Dio creatore, crede di sostituirlo, ma ben presto s'accorgerà della sua follia. L'ordine di Dio è di mangiare soprattutto le cose naturali, così come egli le ha create, e, tra queste ci, è anche il miele. Il simbolo del miele non poteva mancare anche nell'ambito della sessualità. Nel libro dei Cantici, un libro che tratta del rapporto matrimoniale, viene usata la metafora del miele. O sposa mia, le tue labbra stillano come un favo di miele, miele e latte sono sotto la tua lingua. E la fragranza delle tue vesti è come la fragranza del Libano. 4 e 11. Sono entrato nel mio giardino, o mia sorella, sposa mia, ho colto la mia mirra col mio balsamo, ho mangiato il mio favo col mio miele, ho bevuto il mio vino col mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. 5, 1. Queste espressioni rivolte alla moglie dal marito, che la chiama sia sposa, sia sorella, dimostrano come la sessualità sia qualcosa di gradevole. Sembra che non occorrano molte parole per convincere le persone che la sessualità sia buona e piacevole. Invece, per secoli e secoli, la sessualità è stata ritenuta dal cattolicesimo romano un peso da portare e milioni di persone religiose l'hanno vissuta e la vivono anche tuttora in modo disumano. Se il marito trova nella sposa delle labbra che stillano miele, se nell'incontro con la sposa tutto è miele, significa che il loro rapporto è piacevole e soddisfacente. Ma l'incontro sessuale è proprio così anche tra gli sposi cristiani? La sposa si offre al marito come un favo di miele o come un favo di fiele? Il rapporto sessuale è un rapporto gradito o un rapporto subito? Gli adulteri molto difficilmente avvengono casualmente. Infine, troviamo il miele anche in uno dei momenti più belli della vita dei discepoli di Gesù. Gesù era risorto, ma i discepoli erano scoraggiati. E mentre erano radunati, Gesù apparve loro. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Luca 24.4142. Pane e miele sono uno dei cibi più squisiti, purtroppo ormai sconosciuti, perciò i discepoli diedero a Gesù qualcosa di prezioso. A me piace pensare che il miele che diedero i discepoli a Gesù rappresenta il meglio di quello che l'uomo possa offrire a Dio, perché innanzitutto, offrendo il miele, l'uomo non offre qualcosa che lui ha creato con le sue capacità come i cibi preconfezionati. Così è della vita che ci è stata data. Noi possiamo offrire a Dio solo ciò che lui ci ha dato, perché di nostro non abbiamo nulla se non il peccato. Inoltre, se il miele è l'emblema della bontà e della dolcezza, allora chi ha posto fede in Cristo deve offrire al suo Salvatore il meglio. Oltre alla vita che già appartiene a Cristo, ogni credente conosce la cosa alla quale tiene maggiormente, conosce il suo miele. E questo offerto a Cristo è il gesto d'amore più grande che possa compiere. Gesto che rende la sua vita una luna di miele. Novembre 2006. Ellero.